Allora, abbiamo detto la scorsa volta che tutta l'energia che deriva da Kadosh Baruch Hu, quella luce, che nella Kabbalah si usa sempre la metafora della luce, è meramente un raggio, cioè una piccola illuminazione che deriva dalla fonte divina. E non è l'essenza della fonte divina, chiaramente. Allora, nel secondo capitolo qui diciamo, Vine 147, ecco. Liyot shama kor li tavuta olamot. Visto che la fonte della creazione dei mondi, a livello divino, Urak he ara levad, non è altro che appunto, un raggio. Usiamo sempre questa metafora del raggio. Umitechilah e all'inizio, cioè prima della creazione, haita e arazo hazot klulabim korah. Questo raggio faceva parte della sua fonte, prima della creazione. Come detto in una fonte che si chiama Pirkei de Rabbi Eliezer, c'è scritto Zeuma Deita Bepirkei de Rabbi Eliezer. Questo è il senso di quanto è detto nella fonte chiamata Pirkei, i capitoli, cioè gli insegnamenti di Rabbi Eliezer. E lì c'è scritto Ad Shelon Nivraha Olam, finché il mondo non è stato creato, Hayahu Ushmo Bilvad. Ci chiediamo cosa c'era prima della creazione del mondo? Il Pirkei de Rabbi Eliezer dice: prima della creazione del mondo non c'era altro che lui e il suo nome. Che vuol dire lui e il suo nome? Allora la spiegazione è questa: Shezeu b'chinat Hashem veHehara kmo sheiklula be'atzmuto nesof kodem shenivra olam. Quando diciamo lui, diamo per scontato, c'era Kadosh Baruch Hu, chiaramente. È lui che ha creato il mondo, quindi lui precede la creazione del mondo. Ma cosa vuol dire che c'era anche il suo nome? Il suo nome vuol dire che c'era anche questo potenziale, c'era anche questo raggio, c'era anche questo aspetto meno essenziale, più ristretto, più lontano, diciamo, dalla essenza del divino. Però non era ancora visibile. Cioè qui noi diciamo che Moshe hiklulah, come questa ancora è inclusa, fa parte di Atzmut Or Ensof, l'essenza della luce infinita. Kodem Shenivra Olam, prima che il mondo fosse stato creato. Vuol dire che la creazione del mondo è un risultato del fatto che questo raggio viene messo in evidenza. Questo nome, per così dire, viene messa in evidenza in modo tale che tutto il resto parte, va in secondo piano, cioè si nasconde tutto il resto, per poter dare spazio, per così dire, questo lo dice la Rizal, per poter creare uno spazio, un vuoto che sembra essere un vuoto dalla sua presenza essenziale, in modo tale che può esistere qualcosa che sembra essere indipendente dopo molte fasi, chiaramente, e come abbiamo già approfondito questo aspetto qui. Quindi prima che fosse stato creato il mondo, questo raggio era già esistente, ma era come se non fosse esistente, nel senso non era evidente, perché alla luce dell'essenza il raggio non ha nessuna importanza, come abbiamo fatto la metafora del sole. Quando parliamo del raggio del sole, per noi è importante perché è da lì che a noi arriva la luce, il calore e tutto ciò che vogliamo ricevere dal sole. Però quando stiamo nel sole stesso, il raggio, singolo raggio, non ha nessuna importanza. Uleachar shenivra olam, e quindi dopo la creazione, ushenifrash venivdal, è come se questo raggio diventasse distinto, staccato. distaccato, leachayot haolamot, era questo raggio, leachayot haolamot, per dar vita, per essere il canale di energia divina verso i mondi, cioè verso la creazione. Velachen, e perciò, e ara alazo, itamid bivchinat razzo, parola chiave razzo. E per questo traduco, per questo, questo raggio è sempre in una modalità di razzò. Cosa vuol dire razzò? Nella visione divina del profeta Ezechiel, nella visione del famoso carro che noi recitiamo nell'Aftarà, l'ultimo giorno di Pesach, il settimo giorno di Pesach, scusate, in questa visione lui descrive questi animali che traggono il carro e che si innalzano, cercano di vedere, di godere di una luce divina di un mondo superiore del loro, e subito si innalzano e subito si tirano indietro al loro luogo, diciamo così, naturale, come se presi da un timore, da una paura di andare troppo in alto. E c'è scritto Ve'achayot Ratzo Vashov, e questi cosiddetti animali, qualche tipo di essere spirituale che adesso non approfondiamo, Ratzo Vashov, corrono e tornano. Razzò come la ruz, correre, vashov e tornare, vashuv, teshuvah. Razzò, vashov, vanno e ritornano al loro posto. La parola chayot, che si traduce con animali, si può leggere anche chayut o chiyut, cioè vitalità, energia di vita, ok? E quindi è un riferimento in questo senso a tutta l'energia vitale, tutto quel raggio divino che dà vita a tutto ciò che esiste. È sempre in uno stato di correre e tornare, uscire da sé e tornare in sé. Come un cuore che batte, dentro e fuori. Cioè questa energia divina non è una cosa statica. Sta lì, ecco, messo dentro e lì rimane. Come dicevo, è come un cuore che batte, va avanti e indietro. Entra e esce, sale e scende. Questo nella nostra esperienza umana, appunto, lo vediamo nel cuore, lo vediamo anche nel respiro, che è in continuo movimento, chiaramente. Cos'è questo correre? Cos'è questo uscire da sé? È la volontà di legarsi a qualcosa di più elevato, perché hanno il sentimento della propria fonte e cercano di legarsi a quella fonte. La luce divina, l'energia divina, nel suo senso più lontano dalla fonte, vuole tornare verso la propria fonte. Buongiorno Alberto. Vuole tornare verso la propria fonte, e quindi c'è questo movimento di corsa, correre per uscire dal proprio limite e legarsi a ciò che è più grande, ciò che è meno limitato. Ecco perché anche molti spiegano che spesso per natura uno si muove durante la tefila, avanti e indietro, è il movimento dell'anima. È una cosa automatica. Hai visto? Non è voluta. No, no. Come una fiamma di una candela, che è sempre in movimento per salire verso sopra, verso la fonte. Allora, perché non può correre e basta? Perché deve tornare? Uno dice, vabbè, cresci, sali, perché tornare al punto di partenza? Perché in realtà lo scopo della creazione è quel tornare. Bisogna stare in questo mondo. Bisogna stare in questo mondo. No. Come c'è scritto? Lascevet Yetzara. Hakadosh Baruch Hu ha creato il mondo per abitarlo. Per abitarlo, non per tornare indietro. Non per tornare indietro. Dall'altra parte è necessario anche il razzò, è necessario anche non perdere quella volontà di salire e quel contatto e quel tipo di energia, quella corsa, perché sennò uno si perde nella mondanità, diciamo. Cioè noi, il compito è di trovarsi in questo mondo, ma non di essere di questo mondo. In modo tale è il mondo che appartiene a te, non tu che appartieni al mondo. E questo è possibile solo quando c'è questo razzo, cioè questo continuo movimento che va verso l'alto e poi riporta la lezione verso il basso. Il movimento verso l'alto è valido quando è ben radicato nel shov, nel ritorno. Quando non è ben radicato è pericoloso. Perché è pericoloso? Perché può correre e rimanere lì. Cosa è successo ai due figli di Aaron? Due figli di Aaron sono morti, ma non è che sono stati colpiti da qualche uno che l'ha puniti. No, è che il loro razzò, la loro corsa della loro anima verso Hashem era così forte, non sufficientemente radicata nel shov, quindi nell'aspetto di ritorno, e quindi l'anima è rimasta su. È come uno che si perde nel mare, non torna più. Nel mare della... del cielo. Sì. Facendo questo esempio, sì. Allora noi il nostro Yetzerà in teoria serve a questo anche. A cosa? A tenerci nel materiale. In un certo senso sì, potremmo dirlo questo. Sì. È vero. È vero, c'è una storia nel Talmud in cui si parla dei Chachamim che hanno deciso di cacciare via gli Yetzerà. No, non sono neanche reso conto di cacciare via gli Yetzer Hara. Hanno fatto questa operazione, vorrei dirvi come ma non posso, scusate. Hanno fatto questa operazione e poi si sono resi conto che gli Yetzer Hara serviva a qualcosa, perché nessuno voleva procreare. Non hanno trovato un uovo il giorno dopo. No, il Yetzer Hara serve a spingere certe cose, certo. Che se non fosse per gli Yetzer Hara, questo è un esempio, ma tante cose che se non fosse per gli Yetzer Hara nessuno ci penserebbe. Una guerra in difesa. Una guerra in difesa, tante cose. Allora hanno pregato per il ritorno degli Yetzer Hara, immagina. E quindi no, è giusto quello che dici, però il Ratzov Hashov è all'interno della Kedushah stessa, chiaramente, no? Certo, il Yetzer Hara ha la sua funzione. Allora dicevamo che la natura di questo, di questa scintilla, di questa cosa che deriva dall'essenza di HaKadosh Baruch Hu, ma è solamente una scintilla, è solamente un raggio, è sempre in una modalità di razzò, sempre, è sempre, diciamo, rivolta verso l'alto. Non si perde nella creazione, è della creazione, è la forza creativa della creazione, l'energia che crea, che dà vita, che mantiene l'esistenza, ma gli occhi, tra virgolette, sono sempre rivolti verso l'alto. Questa è la sua forza, che non si stacca mai, in altre parole, dalla sua fonte. C'è sempre quel razzo, c'è sempre quel tiro verso la propria fonte, quell'attrazione fortissima. Liot ki hefza utsukata li kalel beorenzov mekora veshorsha. La sua, diciamo così, il suo desiderio, Hefetz è desiderio. Il suo desiderio e la sua profonda volontà, Teshukah è un forte desiderio, è di essere assorbita e unita dalla sua fonte, Oren Sof, la luce infinita. E poi dice, aggiunge, come è la natura di ogni cosa in realtà che vorrebbe essere assorbito dalla propria fonte. E facciamo qualche esempio adesso nel testo. Uketeva kol davar, com'è la natura delle cose, liot rotze likalel bishorsho, di avere questo desiderio di essere assorbito dalla propria fonte. Ukmoteva esh, come per esempio la natura del fuoco. E noi osserviamo la fiamma, vediamo che la natura è la lot le mala le shorsho, esh yesodi, che come se volesse salire su verso la propria fonte. Anche piante. Esatto. Velachen bilti shemen uptila, e perciò se non c'è l'olio e lo stoppino, o shared varim machzikim et esh, o altre cose che possono tenere il fuoco, yefshar lachazik klal et esh, allora non c'è possibilità di tenere il fuoco. Cioè bisogna trattenerlo in qualche maniera con qualcosa. E anche quando lo si trattiene con l'olio e lo stoppino, comunque è sempre in movimento, vuole uscire. Ve'af gam shemachzikim oto al yedei shemen uptila, in eutamid baliot viridot. Volete aprire, per favore? Grazie. È sempre in movimento, sale e scende. Buongiorno. Kmo ken, e così è anche Bahara shemechayet olamot lefi sheyara bilvat. Anche il raggio della luce divina che dà vita ai mondi non è altro appunto che un raggio, e quindi vuole essere assorbita, il desiderio suo, tra virgolette, di essere assorbito dalla propria fonte. Perciò è sempre in una modalità di corsa, razzò, di voler uscire da sé. Ecco che torniamo alla designazione che gli abbiamo dato all'inizio. Semea, assetata, a sete. Per questo si chiama semea nella Torah, quella che ha sete. Shitzmea tamid la lot lemala, è sempre assetata di questo volere salire sopra, in alto. Ukmoshe katuv, come è scritto nel Teilim, leman yezamercha kavod velo yidom, perché la mia anima canta a te, Signore, e non sarà mai in silenzio. Velo yidom, e non è mai in silenzio. L'anima, cioè l'energia divina, non si calma mai da questo razzò, velo yidom, non è mai resa silenziosa. È sempre, sempre presa da questo desiderio di essere assorbito, di salire su. E poi cita il Zohar dove è scritto Nehora tata'a kare tadir li nehora ila'a vela shachech. Cioè, la luce inferiore ha sempre la volontà di salire verso la luce superiore e non si riposa. Cioè, questa è la sua natura, è sempre rivolto e attratto dall'alto. Posso chiedere una cosa? Prego. Quando uno muore, quest'anima che va su, che succede? Va su, non torna più. Un sollievo, come chiama? Per l'anima è un bene, cioè nel senso, è questo che l'anima vuole, tornare verso la propria fonte. Senza tornare giù. Può essere che poi torna giù. Viene rimandato giù. Un altro corpo. Ma viene rimandato, sì. Un altro corpo. Fino a prima e anche le nostre anime già stavano qui prima. C'è scritto che non c'è quasi un'anima nuova, diciamo. Tutto contato. Niente di spaventoso, tutto regolare. Sì, sì. Siamo qui, ci siamo già passati, no? Vuol dire che noi siamo sì, praticamente lo stoppino di quella cosa. Oh, ne bravo. Siamo. Noi siamo l'olio. Esatto, è lo stoppino. Sale, noi siamo lo stoppino e le mitzvot sono l'olio. Esatto. Allora ecco perché si chiama la setata. E ora facciamo un piccolo appunto su questa parola Hatzemea, la assetata, che è scritta nella Torah, abbiamo visto nella precedente lezione, abbiamo citato. Vzeu inyan, questo è il significato della parola Hatzemea, terzo paragrafo, 148, 49. La parola Hatzemea possiamo dividere in due, Hei, Semea. Perché? Che senso ha? La Hei ha sete, la Hei è assetata. Hei, Semea. Cos'è la Hei? La Hei rappresenta Malchut, perché è la seconda Hei del nome di Hashem, Yod Kei Vav Kei. È un riferimento, un'allusione alla seconda Hei che rappresenta Malchut, di cui parlavamo. Bechinat Malchut, Shehi Bechinat Hei, Acharona de Shema Vayeh, cioè il livello, l'aspetto di Malchut, è un riferimento a Malchut che corrisponde alla seconda Hei del nome Havayeh, Ve'alzu, Ve'alze Amru be Midrash Rabbah, e proprio riguardo a questo hanno detto i maestri nel Midrash, che si chiama Midrash Rabbah, su Bereshit, c'è scritto nella Torah un'altra citazione, Behi Baream. Behi Baream, la Torah dice Elle toledot ha-shamayim ve-ha-aretz behi Baream. Questa è la storia del cielo e della terra quando sono stati creati. Behi Baream, nella loro creazione, nel loro essere stati creati. Il Midrash dice Behei Baream, con la Hei li creò. Prendi la parola Behi Baream, così come la vedi, e trasformi di nuovo in due parole. Behei, attraverso una Hei, la lettera Hei, Baream, li creò. Cos'è questo Hei? Di nuovo, la stessa cosa. Rappresenta la seconda Hei del nome di Hashem, che rappresenta il livello di Malchut, che abbiamo spiegato nelle altre lezioni, è l'ultimo livello prima della creazione vera e propria. Ok? Dimmi. No, forse dico una cosa. No, no. È per questo che comincia Bereshit con non con l'Ale. Okay. Ah, no, quella è l'Ale. Però inizia con la Bet. Bet. Bereshit inizia con la Bet, non con la Hei. Un altro concetto. Quindi Behei Baream, hine ot Hezu, questa stessa Hei è quella che Tzemea, quella che è assetata, che ha sete, Shirozau Mishtokeket, che vuole e desidera fortemente, Tamid, costantemente, la Chazor Leain, di tornare al cosiddetto nulla, cioè alla sua fonte, Ulehikalel Beshorsha, ed essere assorbita dalla sua fonte. Valzene Mar, e riguardo a questo è detto nel profeta Geremia, Allo ko devari kaesh, ecco che le mie parole o la mia parola è come il fuoco, dice il profeta, a nome di Akadosh Baruch Hu. Cioè, perché come il fuoco? Come abbiamo detto prima, di che mo teva esh, così come la natura del fuoco è tale la lot le mala, quella di salire sempre verso l'alto. Canis Carleel, come abbiamo detto prima, Kemoken, anche Devari, anche la mia parola, anche la parola di Hashem, Kemoken Devar Havaye, la parola di Hashem. Cos'è la parola di Hashem? Malchut. È sempre questo, l'energia vitale della creazione, la parola. Bechinat Behei Baream, questo Hei con il quale lui crea, è come il fuoco, Kaesh, Urozeli Istalek le mala, vorrebbe salire verso l'alto. Vorrebbe venire via dal sotto, dal di sotto e andare verso il di sopra. Cosa vuol dire che una lettera vuole muoversi? Noi abbiamo le lettere, ma siamo noi padroni delle lettere. Le lettere sono strumenti che formano parole, che noi formiamo come vogliamo, e non hanno una propria volontà. Qui stiamo dicendo che la Hei vuole salire. Cosa vuol dire la Hei vuole salire? Cosa strana. Questo adesso spiega. Che noi usiamo il termine lettere e parole per spiegare delle realtà più elevate, ma quelle realtà più elevate non corrispondono esattamente a questa metafora che noi usiamo. È comunque un'altra cosa. Dove noi possiamo usare il termine lettera perché è una giusta metafora per quello che vogliamo esprimere, ma non è alla fine una lettera come le nostre lettere. È qualche tipo di energia, qualche cosa che in realtà ha un senso di voler qualcosa e quindi di voler essere assorbito, di voler risalire verso l'alto. E questo diciamo adesso in questo paragrafo. Dehine ot hei le mala, quando parliamo della lettera hei, non le mata nella nostra esperienza, ma le mala, cioè il senso spirituale della parola hei, della lettera hei. E no has ve shalom, mai sia paragonarlo che dibura Adam alla parola che l'uomo usa le lettere nel suo modo. Shen borazzon, che sono delle lettere, delle parole che non hanno nulla di proprio, solo quello che l'uomo gli dà. Deotiot le mata hem domemim. Le lettere, le mata, sotto, cioè nella nostra esperienza, sono inanime. Shen behem mitzad atzmam lo razzon ve lo chachma, non hanno né un volere, né una saggezza di per sé, di proprio. Behem rakelim sono degli strumenti che possono contenere qualcosa che noi ci mettiamo. L'itlabesh beh mese koach, qualche forza, qualche energia, qualche idea, noi possiamo investire nelle lettere e nelle parole. Avale mala, has ve shalom lo marken, ma mai sia applicare questa idea a le mala, a ciò che accade nei mondi superiori. E la hadibur shelemala, la parlata, ciò che è parlato in alto, yesh be'otiyot ratzon ve'chokhma, sono delle lettere che invece hanno un proprio volere, hanno una propria, un proprio pensiero, diciamo una propria chokhma, saggezza. Sharei mi dibura elyon itavam mekora chokhma shebegan eden elyon. Tutto è creato attraverso la parola, vero? Non solo il fisico, anche le cose spirituali. Come dice, dal dibur elyon, cioè dalla parlata superiore, è stata creata la fonte della Chochmah, cioè del livello di saggezza, Shebe Gan Eden Elyon, del livello che si chiama il Gan Eden superiore, in contrasto al Gan Eden inferiore, che corrisponderebbe... Qui c'è un po' di livello tecnico, però corrisponderebbe Vainu Mashe Malchut e Azilut Nasa Tiklibria. Corrisponde al livello di Malchut, che è l'ultima delle 10 Sefirot, ma del mondo di Azilut, cioè del primo mondo di emanazione divina, quindi un livello altissimo, come questo diventa la fonte del mondo di Beria, cioè del secondo mondo, dove per la prima volta possiamo usare la parola Beria, creazione, ma ancora spirituale. Questo è creato dalla parola divina. Rappresenta delle lettere, delle parole divine. Per dire che quando parliamo di lettere e parole a livello superiore non è applicabile quello che applichiamo a lettere e parole nella nostra esperienza umana. Parliamo di un altro livello, di un altro aspetto di questa cosa, dove è come se fossero degli angeli, diciamo così, come se fossero degli esseri che hanno un proprio volere, che hanno un proprio... E come possiamo capire questo? Forse possiamo fare l'esempio di un angelo. Cioè, noi usiamo la metafora lettera e parola perché vogliamo esprimere... Il nostro modo. Vogliamo esprimere alcuni concetti, che queste sono delle metafore giuste per esprimere quei concetti. Cioè l'idea che le lettere sono come dei mattoni che creano una parola che è come una casa e che possiamo fare milioni di combinazioni nell'ordine delle lettere, nelle lettere usate, nel mettere in ordine inverso o contrario, eccetera. Queste sono metafore che noi usiamo per esprimere questo concetto. Il fatto stesso che usiamo la metafora della parola è anche per, come abbiamo detto, per esprimere l'idea di qualcosa che è esterno a sé, qualcosa che esce fuori dalla persona propria e va in qualche maniera ad avere un effetto all'esterno della persona. Sono molti motivi per cui noi usiamo questa metafora, però dobbiamo sempre fare attenzione a non limitare il soggetto della metafora ai limiti della metafora. Mashal è la metafora, Nimshal è il soggetto della metafora. Il Mashal è più limitato del Nimshal, ecco perché ci aiuta a capire. Se no, non avremmo bisogno del Mashal, non avremmo bisogno della metafora. Però questo vuol dire anche che il soggetto della metafora non è la metafora. Noi usiamo la metafora per esprimere, per trasmettere certi concetti che abbiamo difficoltà a capire in maniera chiara se non fosse per la metafora. Ma dobbiamo sempre fare attenzione, appunto, a non scambiare la metafora per il suo soggetto. Allora ecco che qui stiamo facendo questo tipo di accorgimento. È vero che applichiamo la metafora di lettere e parole a questo raggio del divino, però dice alt, non scambiare le due cose. Le nostre lettere funzionano in una determinata maniera. Quando parliamo delle lettere divine, quando parliamo, stiamo parlando dei mondi superiori. Che possono essere e i mondi, un'altra cosa. È come se dicessimo l'anima del mondo. L'anima ha in qualche maniera, per noi è difficile immaginare, ha in qualche maniera una sua, tra virgolette, indipendenza, una sua identità. Non diciamo indipendenza, identità. Ha una propria identità. Identità vuol dire che c'è qualcosa che vuole, che pensa in qualche maniera diversa dalla nostra, chiaramente. E il suo pensiero cos'è soprattutto? È questo desiderio di voler essere assorbito dalla sua fonte, di essere attratto da quello che è la sua fonte. Quello che stiamo dicendo qua. Quindi, sì, metafora, però il soggetto della metafora, vogliamo fare l'appunto, in molte cose è diverso dalla metafora stessa. Mashal è l'esempio. Nimshal è il passivo, è il riflessivo, no? Nimshal. Sì, Alberto, scusa. Dunque, c'è lo strumento, no? Il soggetto della metafora. Sì. Ma c'è un momento evidentemente in cui c'è una divaricazione, cioè la metafora, il soggetto utilizzato da noi, insomma, per il nostro uso di metafora, eccetera, è il soggetto che diventa, va visto e inquadrato come l'emala, quindi tutta un'altra cosa, tutto un altro. Sì, per soggetto io intendo il l'emala, cioè quello che è sopra. Ma c'è un momento, una condizione, insomma, il soggetto si sbaglia a dire se il soggetto è uno, utilizzato l'emata nel nostro uso di metafora terreno, diciamo, e dallo stesso soggetto visto l'emala perché ha quell'autonomia, quella cosa, eccetera. Questa è un'ottima osservazione, perché è vero che il giusto mashal, la giusta e corretta metafora, cioè io potrei inventarmi una metafora per spiegare qualcosa, però è chiaro che è limitata a quella spiegazione. Non è una vera metafora, è una metafora funzionale. Ma le metafore che sono date dalla Torah e dai tzadikim sono vere metafore, cioè in realtà è come dici te, è la stessa cosa su un piano diverso. Quindi è un'espressione superiore della cosa che a noi è impossibile accedere, ma esiste la stessa cosa in una maniera, diciamo, più umana, più comprensibile. E attraverso quella maniera più comprensibile noi possiamo cercare un po' di risalire verso la stessa cosa, però in un mondo parallelo più alto, diciamo più elevato, superiore. Quindi è vera questa cosa. Quando si tratta di un mashal, nella Hasidut lo chiamiamo mashal mechuvan, un mashal, una metafora esatta, che può dare solo un Rebbe, solo una fonte di tzadikim o di Torah. E lì è veramente la stessa cosa. E per questo è scritto che Shlomo HaMelech poteva dare 3.000 metafore per un concetto. Shloshet alfim mashal. Allora, scusa, se prendi uno molto intelligente, un bravo scrittore, anche può dare 10.000 metafore. Cioè, sì, va bene. Dipende, è una... come le dà? Allora, che il senso... tipo di metafore? Oh, bravo. Questo. Quindi sì, proprio questo si vuole dire. Non sono metafore funzionali. Metafore vere, cioè dare 3.000 metafore vuol dire poter indicare livello per livello realmente i vari strati della stessa cosa come esistono in diverse modalità, in diversi livelli. Questo è il vero mashal. È giusto? Giustissimo. Mashal, come avevi detto, la parola ebraica? Mashal e nimshal. No, mashal proprio... Cosa significa mashal? Quella chassidut, come lo dice? La chassidut. Mashal proprio... La chassidut, come lo dice? Mechuvan. Ecco. Mechuvan, come kavana. Mechuvan. Esatto. Preciso. Mashal mechuvan. Si intende dire con questo un mashal preciso. Come la matematica, che tu puoi arrivare allo stesso discorso, fai 3 per 2 è 6, poi fai 1 più 1 più 1 egal 6, fai 2 per 3 è 6, e sempre arrivi allo stesso risultato. Ok, quindi è come se queste lettere avessero una propria identità. E citiamo qualche altra fonte a riguardo. C'è scritto in un altro midrash che ita be midrash eicha haotiyot bau le haid. Le lettere vennero a testimoniare, oppure all'apertura del Zohar è scritto che dita Bezohar Shebao Tiot Livoron Benotolam, le lettere vennero con le quali poi creò il mondo, come se fossero delle cose con una propria identità. Ubiti con Zohar, Bechdamati con Zohar, c'è scritto un'altra fonte, Besofa Ita, Va Maschilim Yaziru, perciò che è detto nel libro di Daniel, Va Maschilim, gli intelligenti, Yaziru, illumineranno, brilleranno. Ilen, lui dice nel Zohar, Ilen in un atvan. Chi sono questi intelligenti? Il Zohar dice, sono le lettere. Avalon sechel, che hanno l'intelligenza, le ala kodam malka, di salire verso il re, verso Kadosh Baruch Hu. Kol chad al tikune, ognuno secondo la sua posizione giusta. Uperesh bikise melech, shelachen ikru otiyot maskilim. E per questo le lettere si chiamano maschilim, intelligenti, in diverse fonti. Comunque, velachen shayach lomar she'ot hei rotza listalek velalot lemala leshorsho. Per questo possiamo dire, come stiamo dicendo qui in questa nostra tesi, che la lettera hei può risalire verso la propria fonte. Vezeu deita bezoar, ed è questo anche che è scritto nel Zohar. Beshata de iu gorechi musagi, quando... nel momento in cui la Shekhinah sente un forte rechimu, vuol dire amore, un forte affetto. Shekhinah è l'aspetto femminile del divino, approfondiremo un'altra volta. E quando sente una forte attrazione verso la propria fonte, allora dall'intensità, mi gode chico de rechimo, da questa intensità di questo amore, di questo affetto, dello yachlal misbal, che non può contenere, non può trattenere, oppure non può tollerare, cioè proprio non può sentire, sopportare un sentimento così forte, allora azirat garma, beze irusagi, si rende piccola, minuscola, finché non si vede niente di essa, adelait chazi umina, non si vede più niente, e la zeira di nekuda chada, se non che una piccolissima, un piccolissimo punto. Cos'è questo punto? Un mai ihi, e che cosa è questo punto? Yud. La lettera yud. Yod. Cioè, la hei, che rappresenta Malchut, la Shekhinah, come abbiamo spiegato, si rende piccola come una yud. Cosa vuol dire si rende piccola come una yud? Cosa stiamo dicendo tutto il tempo? Che il raggio vuole essere assorbito dalla sua fonte. Razzò vuole correre verso l'alto. Ecco, questo vuol dire che la Hei diventa un aiuto. Che qualche volta il raggio si compiace, diciamo, arriva a quello che è il proprio desiderio, cioè di essere assorbito dalla propria fonte. Ed è chiaro che nella propria fonte non è quasi visibile. Il raggio, quando fa parte del sole, non ha nessuna importanza. Ecco che la Hei diventa la Yud, in certo senso. Zeu inyanit kallelutto be'ain. Cioè, se noi diciamo la Hei diventa un aiuto, siamo una formula magica. Allora la Chassidut spiega, no, il senso è molto chiaro. È il desiderio forte della esistenza di essere assorbita dalla propria fonte. Dove perde la propria importanza, chiaramente. E la fiamma sale su, ma poi non esiste più. Ed è ancora questo il suo desiderio. Non tornano. Eh? Non tornano. Chi non torna? Razzov Ashov, va e torna.